Radio 24 Reportage. Il crack delle banche popolari. Storie di risparmio tradito. Di Giorgio Stamatopoulos. La banca è già 115 anni che è stata fatta lì con sacrifici dei nostri nonni. Chi cavava le pietre, chi le portava, chi le murava. Ma ero affezionato come gatto alle mura. Duilio Peruzzi, pensionato di Vinci, col dissesto di Banca Etruria, la sua banca, ha perso 10.000 euro. Risparmio tutta la vita perché ho passato una vita bruttissima e ora questa offesa qui. Con lui ci sono altre migliaia di risparmiatori, pensionati, piccoli imprenditori, artigiani, casalinghe, titolari dei 430 milioni di euro andati in fumo col crack delle quattro banche popolari. Molti si vergognano. C'è chi è chiuso in casa, non esce. O non gliel'hanno detto i figli o i nipoti. Sapevano dove erano i soldi, sono andati e l'hanno presi. Queste sono obbligazioni della banca ad alto rischio, con un tasso del 7%. Com'è la realtà? Secondo lei, io che vado a dargli i miei risparmi, ce li mettevo i soldi lì. E ora ci vogliono anche arbitrare, giudicare. Mi vado a informare a Banca Italia. Gli ho chiesto, guarda, io vorrei sapere di più sulla Banca Etruria, i soldi. Dice, guarda, avete perso tutto. Ci avevano detto fino al giorno prima che eravamo sicuri, tranquilli, erano obbligazioni di una banca. Si è mai visto una banca fallire 60.000 euro? Una mattina di un lunedì 23 novembre sono stati azzerati. Banca Marche, Carichieti, Cariferrara e Banca Etruria sono tutte sull'orlo del fallimento ormai da tempo. Il decreto del governo tutela in extremis dipendenti, correntisti e obbligazionisti ordinari, ma lascia nei guai circa 130.000 azionisti e più di 10.000 sottoscrittori di bond subordinati, che non hanno diritto ad alcun risarcimento. Se mi avessero detto, guardi, che queste non erano sicure, erano subordinate, io ho scritto... Cioè, lei ha comprato delle azioni di Banca Etruria? Sì, e mi hanno dato queste obbligazioni come premio. 5-6 mesi fa, guardavo sulla banca, queste obbligazioni da 20.000 euro erano 9.000 euro. Direttore, io dico, ma se preoccupi, questa la rendita è sicura, alla scadenza riprende il capitale, che problema c'ha lei? A 22 novembre mi telefona, che è successo? Le obbligazioni e le azioni sono a zero, finite. Mi hanno rubato 20.000 euro. Da dove viene lei esattamente? Io da Empoli. 20.000 euro, perché dice che gliel'hanno rubati? Lei non si è messo a speculare? Ah, il 2,8% netto di interessi, speculazione. Sulle subordinate, emissione 2013, vendute per ordinaria, con MIEF falso naturalmente. Mi hanno detto, investiamo in queste altre obbligazioni che sono identiche alle altre. Questo si chiama truffa. Quando ha scoperto che... Mi ha telefonato il direttore di banca e mi ha detto che i miei 20.000 euro erano diventati zero. Ecco com'è andata la cosa. E con quale motivazione? Perché ha detto che il governo Renzi aveva fatto una legge per la quale anche i subordinati rimettevano questi soldi. È un mezzo bail-in. Vengo da Venturina, provincia di Livorno. Nel 2012 mi hanno fatto comprare delle obbligazioni e non sapevo che erano obbligazioni subordinate, perché erano soltanto risparmi interni alla banca con il capitale garantito. E invece dopo il decreto ho scoperto che io ho perso tutti i soldi. 32.000 euro andati in fumo. E questo è un esproprio di Stato. Renzi ha salvato apposta questi signori che mi hanno venduto queste cose senza dirmi. Avevo sottoscritto nel 2007 delle obbligazioni della Banca delle Marche, non avendo peraltro alcuna idea che fossero obbligazioni subordinate. Poi ho scoperto anni dopo la simpatica notizia. Mai avrei pensato che prestare i soldi a una banca potesse esserci il rischio di non riaverli indietro. Il 28 novembre a Civitavecchia il pensionato Luigino D'Angelo si toglie la vita dopo aver perso 100.000 euro nelle obbligazioni subordinate di Banca Etruria. I risparmiatori si organizzano nel comitato Vittime del Salvabanche. In piazza esplode la rabbia. Sono zero, io sono una persona che ha la sua dignità, non sono zero io. Ce ne siamo sudati i nostri soldi. Non sono rubati. Il bancario sta saltando. È facile fare il finocchio con il culo degli altri. I salvataggi non si fanno per decreto, vi veniamo a prendere, non abbiamo più niente da perdere, sono i soldi dei nostri figli. Vergogna! Vergogna! Dietro l'anonimato, alcuni dipendenti e direttori di filiale ammettono che sì, hanno venduto obbligazioni ad alto rischio senza dichiararlo ai clienti, ma lo hanno fatto sempre sotto pressanti indicazioni dei vertici. Voi tutti sapete che il primo premio è una Cadillac Eldorado. Volete vedere qual è il secondo premio? Secondo premio 6 coltelli da bistecca. Terzo premio il licenziamento. Perché c'è solo una cosa che conta in questa vita. Farli firmare sulla linea tratteggiata. Le cose sembra siano andate proprio come nel vecchio film di James Foley. Ne parliamo con Vincenzo Imperatore, ex manager bancario e autore di libri nei quali svela il volto più nascosto e spregiudicato del sistema bancario italiano. Il popolo dei bancari è semplicemente inserito in un sistema marcio dalla testa ai piedi. Non si tratta di piccole banche, ma tutto il sistema ragiona secondo quelle politiche commerciali. A inizio di ogni anno, tutti i manager di rete, dall'amministratore delegato all'ultimo direttore della più piccola filiale del paese, riceve una scheda obiettiva su cui è scritto quali sono gli utili che deve realizzare la sua piccola realtà, quali sono i prodotti che deve vendere. Al raggiungimento di quegli obiettivi viene corrisposto un incentivo, un premio che incrementa il reddito, talvolta anche negli anni d'oro, oggi forse un po' di meno, ma comunque rappresenta un incremento, anche pari al 25% del reddito stabile, il che modifica completamente anche la psiche del bancario. È una sorta di droga che ci metti dentro, per cui faccio fatica a pensare che un dirigente, un quadro, un funzionario si possa tirare fuori. Quindi la prima grande stortura è la politica di incentivazione delle prestazioni, che attiene a strategie commerciali stabilite dal top management e calate dal primo all'ultimo dei punti di sintesi cosiddetti, dei punti di responsabilità di una banca. Banca Etruria diventa il simbolo del risparmio tradito, oltre che un caso politico per il coinvolgimento della famiglia del ministro delle riforme Boschi nella gestione allegra dell'istituto. Da sola, la Banca degli Orafi di Arezzo ha venduto il 50% del totale di obbligazioni subordinate, divenute poi carta straccia. Le decisioni venivano prese a livello ristretto, presidente, vicepresidente, vicario, vicepresidente e direttore. Quindi ho deciso di rinunciare a quello che avevo stipato inizialmente, un grande onore. Nel 2009 Rossano Soldini, noto imprenditore dell'Aretino, cooptato nel CDA dell'istituto appena 2 anni prima, si dimette e compra una pagina del Corriere d'Arezzo per spiegare le ragioni della sua scelta. Porta inoltre i documenti in Banca Italia. Dopo le mie dimissioni venne un'ispezione e poi c'è stato il commissariamento dal dicembre 2014 a tutto il 2015, fino al decreto. Quindi la Banca d'Italia poteva farsi di più. Crediti facili agli amici degli amici, che hanno riempito i bilanci di sofferenze per un totale di 8 miliardi e mezzo di euro, mentre nonostante i commissariamenti di Banca Italia si continuavano a vendere azioni e obbligazioni subordinate ai clienti retail. È questa, in sostanza, la storia dei crack delle quattro banche regionali, sulla quale oggi indaga la magistratura. È una truffa in piena regola, la Consob non ha mai avvisato nessuno. Banca Italia cosa ha fatto? Quando è stato il momento di decidere si è girata da quell'altra parte e il governo ci ha portato via tutto. Chi è che ci deve proteggere? Dove sono quelli che ci dovevano proteggere? Com'è che ci hanno dato queste azioni così senza saperlo? Io ho sottoscritto obbligazioni al 30 ottobre 2013. Loro sapevano che ero in sofferenza. 2013. E perché me l'hanno fatta sottoscrivere? Dovevano obbligarle a non farle mettere o quantomeno a bloccarne la circolazione. Questa è una garanzia. Cioè la Banca d'Italia e la Consob, perché ci stanno a fare? Per tutelare chi? Le banche stesse? Interrogativi legittimi su quella che oggi appare essere stata una decisione di sistema, presa a partire almeno dal 2009, quando le banche italiane, travolte dalla crisi finanziaria mondiale, avevano bisogno di nuovo capitale. Con gli investitori istituzionali in fuga, l'attenzione si spostò sui soldi dei piccoli risparmiatori. Secondo Imperatore, per capire come sia stato possibile arrivare a questo punto, bisogna andare indietro nel tempo. Il decennio che ha visto produrre più contenzioso bancario, quindi più soldi dati e non restituiti, è stato l'ultimo decennio. Cioè il decennio dell'introduzione di Basilea 2, la spersonalizzazione del rapporto con il funzionario bancario. Il problema è la logica del profitto che attraversa dalla grande banca del paese alla ultima BCC del paese tutti i punti di responsabilità. Bisogna fare utili, bisogna fare MOL, come si dice nel gergo, margine operativo lordo. Bisogna farlo attraverso la vendita di questi prodotti. Ad oggi, stime Banca Italia, ci sono circa 65 miliardi di obbligazioni subordinate. 35 miliardi quelle emesse da Intesa, Unicredit e UBI, le banche più solide del paese. E le altre? La risposta aspetta le autorità di vigilanza, è un tema di trasparenza e di stabilità del sistema. Togliete i soldi dalle banche! Via i soldi dalle banche! Intanto i risparmiatori lanciano il loro ultimatum. Se non saranno rimborsati, chiuderanno tutti i conti passati alle new bank nate dalla risoluzione delle old bank. In attesa che sia scritta l'ultima parola di questa vicenda, appare già chiaro che recuperare la fiducia dei risparmiatori italiani non sarà facile. Non ce l'avevano mai spiegato fino in fondo che potevano essere diventare carta straccia. Nessuno ci ha detto queste cose. Adesso io non firmo più niente. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.